Salve, salve, galera! Está começando o podcast Sound Mix número 3. E o tema de hoje é cinema, músicas de faroeste. Mas antes eu gostaria de deixar um recado. Eu gostaria de agradecer ao Jurandir Filho do site cinemacomrapadura.com.br e também do Rapadura Cast por ele ter cedido o formato de Jukebox para eu poder usar no meu podcast. Valeu aí, Jurandir Filho. Um abraço. Então, galera, sobe o som. Oh, Sentire fra le dita il legno caldo di un aratro, le spighe pungenti del grano, i capelli morbidi della mia donna. Ma non posso, perché devo uccidere. Guardare negli occhi la gente, di vederla sorridere, di stringere la mano a tutti e di sentirmela stringere. Ma non posso, perché devo uccidere. Colline del sud mi aspettano, le cime degli alberi piangono, la primavera ritorna, non ho tempo per morire. In queste cose il senso del vero, e da parlarne la voce mi vien meno. Thank you. suona per me, solo per me, my Jenny. So che il tuo cuore non vuol parlare d'amore. Sono folle di te, oh my Jenny, sol per te vibro, Jenny guitar, suona per me, solo per me, Jenny guitar. Ovunque andrai, io ti dirò che t'amo, e già lo so, non ti potrò scordare. Scrivo il nome nel cielo di Jenny per amare così. Jenny guitar, suona per me, solo per me, Jenny guitar. Ascoltando, vero? So che vi serve gente. Beh, io sono disponibile. Ma badate prima di accettare. Posto caro. Wait.